la sera al caffè con gli amici. Si parlava di donne motori, si diceva son gioie e dolori. Lui piangeva e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di averle più belle. Lui restava a contare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere. Ma una sera, giocando a scopone, perse un punto parlando di te. Ed infine una notte si uccise per la gran confusione mentale. Fu un peccato perché era speciale, proprio come parlava di te. Ora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore. Cosa importa se in fondo